E bentornati in studio, radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Io sono Marco Segato e oggi siamo con un ospite speciale perché a Bologna dal 19 al 21 succederà qualcosa di particolare questo settembre, ovvero il Parco di Villa Casarini ospiterà Microbo Beer Festival organizzato da Mezzo Pieno Pub, e qua con noi abbiamo appunto per parlarne Camilla, la proprietaria nonché organizzatrice, dico giusto? Esatto, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a te. Torneremo al Parco di Villa Casarini a Porta Saragozza per l'11ª edizione di Microbo. 11 anni, come altrettanti saranno i birrifici che avete coinvolto quest'anno in questo evento bellissimo. Esatto, saranno 11 birrifici, ognuno con il proprio stand, il birraio presente, disponibile per fare chiacchiere con tutto il pubblico, per essere importunato anche dai nerd della birra. Quindi ci saranno 11 birrifici provenienti un po' da tutta la penisola, quindi siamo un festival caratterizzato esclusivamente da birrifici italiani. Ci saranno sia produttori locali, quindi della zona del bolognese, sia altre realtà provenienti appunto da tutta la penisola. E non è solamente una scusa per andare a bersi una birretta insieme, ma saranno proprio anche, se non sbaglio, degli eventi, degli incontri per i veri e propri appassionati, quelli che stanno veramente profondi nell'argomento birra artigianale. Assolutamente sì, cioè diciamo che è un evento molto trasversale, perché chi è semplicemente curioso, vuole assaggiare qualcosa di diverso, viene e assaggia quello che vuole. Non ci sono costi d'ingresso, non c'è nessun obbligo di acquisto del bicchiere. Quindi è un evento molto free per tutti. Chi vuole approfondire l'argomento birra ha a disposizione anche dei laboratori che si svolgono ogni giorno. La maggior parte dei laboratori sono addirittura gratuiti, a numero chiuso chiaramente, ma gratuiti, quindi è sufficiente visitare il sito e iscriversi per partecipare appunto a questi approfondimenti. Consigliamo senz'altro a chi è interessato di andare subito a dare un'occhiata sul sito, prenotarsi per eventuali incontri che gli interessano. Io ti volevo fare una domanda, ti volevo chiedere che cosa avevate in mente ancora quando ormai 11 anni fa è nato Microbo e qual è lo spirito che si porta dietro? Allora, l'idea era di mettere in contatto direttamente i produttori con il pubblico finale. Chiaramente la birra artigianale si consuma prevalentemente nei pub specializzati, dove chiaramente persone come me e gli altri colleghi consigliano le persone su cosa bere. E questa è un'occasione, diciamo, per saltare quell'intermediario, quindi parlare direttamente con chi la birra la fa tutti i giorni. Quindi diciamo che 11 anni fa lo spirito era proprio quello, era quello di mettere in contatto birrifici che noi conosciamo molto bene, perché sono quelli con cui fondamentalmente lavoriamo tutto l'anno, e i titolari e i birrai sono cari amici, negli anni sono diventati nostri amici, quindi l'idea era proprio quella di mettere in contatto il consumatore finale con il produttore, fare una festa fondamentalmente, quindi chiaramente non c'è solo birra, ci saranno anche 5 stand food con una gran varietà di prodotti, dalla pizza, l'American barbecue, gli arrosticini, le tigelle, quindi una gran varietà di cibo per accontentare tutti. Visto che negli anni siamo invecchiati e alcuni di noi hanno messo su famiglia, anche l'area bimbi si è allargata e quest'anno avremo una collaborazione fantastica di cui sono molto orgogliosa, che è la collaborazione con questo gruppo che si chiama Officina Clandestina, che hanno giochi antichi, giochi di legno. Quindi non è la solita area bimbi con i gonfiabili, ma diciamo un'area bimbi un pochino diversa. È proprio molto bello perché dà la possibilità a tutti veramente di andare a partecipare a questa bellissima festa a cielo aperto in un bellissimo giardino, in un bellissimo parco, portandosi anche i bambini che ovviamente non potranno godersi le birre artigianali, però si divertiranno nelle mani sapienti degli animatori. Assolutamente sì, diciamo che l'obiettivo è di creare un evento che abbia il focus birra, ma che sia trasversale, che possa accogliere anche un pubblico semplicemente curioso che ha voglia di fare un weekend diverso. A senso di questo, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che quindi è immancabile l'appuntamento con Microbo Beer Festival da venerdì 19 a domenica 21 settembre, dove giusto gratuitamente si può entrare, ci si prende una birretta con i token. Il venerdì apriamo alle 18, dalle 18 fino a notte, fino all'una. Il il sabato e la domenica apriamo alle 6. Prima facciamo una birretta per aperitivo e siamo pronti per passare quello che poco ci resta dei giorni caldi qua a Bologna in compagnia. Esatto, speriamo che faccia bello. Siamo in un parco, quindi il bel tempo è fondamentale. E noi vi auguriamo senz'altro sole e un bel venticello fresco di fine estate, così da non soffrire neanche il caldo e le zanzare. Esatto. Ti ringrazio davvero tantissimo e ti saluto, grazie mille per questa intervista e grazie mille per averci raccontato questa bellissima iniziativa di Microbo Beer Festival. Grazie a te per questa bella chiacchierata e grazie a tutti gli ascoltatori e venite a Microbo, vi aspettiamo. Ci saremo pronti a fare cin cin tutti insieme, buona giornata e buona giornata a tutti i radioascoltatori.